Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, un buon inizio di settimana, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. Nuova settimana, la squadra però è sempre quella. Mira Lucchetti in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, le coordinate anche quelle sono le stesse. Raggiungeteci alla mail nessunluogo@radio24.it per commentare il tema di quest'oggi, gli sms 349-238-6666, su Facebook il profilo è Nessun luogo lontano - Radio 24, infine cinguettate a Nessun luogo 24. Allora, questo programma nel mese di agosto racconta storie quotidianamente, storie che vengono al di fuori dai confini italiani, storie a volte di guerra, storie di crisi internazionali, storie di emergenze umanitarie e non. Quest'oggi però voglio interrogarmi su come vengono raccontate queste storie, o meglio, come potrebbero essere raccontate o come verranno raccontate. Eh sì, perché negli ultimi giorni il web era pieno di indiscrezioni e rumori su quello che è un nuovo programma che Rai 1 dovrebbe mandare in onda quest'autunno. Il titolo è The Mission ed è un programma che manderà nei campi profughi in alcune zone toste, calde del mondo, Sudan, Congo, Giordania, Haiti, ma poi cercheremo di capirne meglio, alcuni personaggi televisivi, alcuni volti noti. Si è letto di Albano, di Emanuele Filiberto, di Paola Barale, Filippo Magnini, fra gli altri, appunto, che dovranno calarsi per alcuni giorni in quella che è la dura vita dei profughi in questi campi. Il programma sarà realizzato in collaborazione con l'UNHCR, che è l'Agenzia dei Rifugiati dell'ONU, e con l'ONG Intersos. Siccome in questi casi la rete è spietata, perché basta un minimo sussurro per scatenare polemiche, questa cosa ha attirato ovviamente la mia attenzione, e credo che la domanda fondamentale, poi raccogliendo un po' gli umori sparsi qua e là nel web, sia: A, è spettacolarizzazione questo programma, è spettacolarizzazione della sofferenza? B, serve? Cioè, serve comunque accendere i riflettori e utilizzare un volto noto, perché altrimenti si potrebbe dire, beh, il solito giornalista che va lì a raccontare la solita, tra virgolette, crisi umanitaria, forse non ottiene lo stesso scopo. Esiste un modo corretto, esiste un unico modo per raccontare un'emergenza umanitaria. Di questo parliamo quest'oggi a Nessun luogo lontano. Vi invito a scrivere al 349-238-6666, leggo i vostri tweet su Nessun luogo 24, infine su Facebook Nessun luogo lontano - Radio 24. E allora partiamo dando intanto il benvenuto a Antonio Azzolini, capo struttura RAI. Azzolini, buongiorno, benvenuto a Nessun luogo lontano. Buongiorno. E buongiorno anche a Giulio Sensi, direttore di volontariato, oggi collaboratore blogger di vita.it. Giulio, buongiorno, benvenuto anche a te a Nessun luogo lontano. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E infine Marco Rotelli da Beirut, segretario generale di Intersos. Rotelli, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, per evitare di speculare sull'aria fritta, diciamo, darei innanzitutto la parola ad Antonio Azzolini, che è capo struttura RAI, a cui chiederei innanzitutto, abbiamo letto indiscrezioni sul web e sulla stampa, ci spiega meglio che cosa è definito, cosa è stato girato fino ad ora e che cosa vedremo ragionevolmente sul piccolo schermo a novembre? Lei intanto dice non è un reality, giusto? Io dico che non è un reality, non ci sono concorrenti, non ci sono eliminazioni, non si vince niente, nessuno torna vincitore, non ci sono né vincitori né vinti, non è un game show, è un documento, se volete chiamarlo documento, va benissimo, ma non ha nessuna finalità di spettacolo. Mi scusi Azzolini, è saltata la linea quando lei ha detto potete chiamarlo docu? potete chiamarlo docu-reality se vi fa piacere. Ogni giorno si declina in modo nuovo una cosa, un programma, si cerca di dargli un genere. È un esperimento che ha le sue finalità, che riteniamo sia esattamente nell'alveo di quello che dovrebbe essere la televisione del servizio pubblico. Il claim della trasmissione non è mettiamo in imbarazzo la gente, oppure facciamo vedere quanto è brutto il mondo. Sì. Il claim è il mondo che il mondo non vuole vedere. Ci conforta, chiedo scusa Azzalini, sui volti che voi manderete? Io la conforto quanto vuoi. Allora, non so, Emanuele Filiberto c'è? Guardi, stiamo lavorando sul cast, quindi del cast non le dirò niente, le dico sì, certamente che ci sono dei volti noti, ci sono dei volti noti che andranno a vivere un'esperienza estrema, come è estrema l'esperienza che vivono tutti i volontari dell'ONG. Certo, io non voglio Azzalini... Non filtrata da niente, e non esagerata né nel linguaggio né nelle inquadrature. Lei non si vuole sbilanciare, vi dice stiamo facendo il casting, io ho letto, ripeto, Albano, Emanuele Filiberto, Paola Barale, Filippo Magnini, mi dia un ni almeno, con chi sta... Ni, ecco. Ma chi è quello che ha accettato subito di buon grado? Qualcuno ha detto sì subito, idea bellissima, sono pronto a partire. Le posso dire, tutti hanno detto idea bellissima, sì. Abbiamo anche spiegato il perché di questa cosa, che vorrei certamente spiegarla, perché si è parlato tanto, si è detto tanto, ma non si è colto il senso di quello che andiamo a fare. Hanno detto tutti sì, subito, fantastico, meraviglioso, è una cosa che voglio fare. Poi quando abbiamo detto... Allora, dobbiamo andare in Congo, dobbiamo andare in Mali, dobbiamo andare. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare lì. Ci sono dei vaccini da fare. Sì, non è una cosa semplice, non è una cosa facile, e non vivrete in un albergo di prima categoria, in un resort accanto al compound. Vivrete come vivono le persone che vivono lì. Quindi nelle tende, in una HCR, insomma, con tutti i disagi, pur nella... Stessi disagi. Come è giusto che sia. Questi signori hanno detto prima sì, prima hanno detto fantastico, poi hanno detto sì, poi hanno detto ni, poi hanno detto no. Ne ho una lista. Mi dica uno che ha detto no. Uno che ha detto no. Che si è spaventato per la febbre gialla, che ne so, o per la malaria, o insomma, che ha avuto timori legittimi e ragionevoli. La prima di timori ragionevoli, certamente. La prima che mi viene in mente, ma anche perché aveva impegni suoi, è Elisabetta Canalis, per esempio. Sì, di cui si era letto. Fantastico, meraviglioso, bellissimo. Poi vaccini. Ho degli impegni. Insomma, capita. Sì. No, certo, perché non tutti sono preparati a viverla veramente questa cosa, ed è uno dei motivi di questa trasmissione. Sì. Abbiamo preso dei volti noti, perché certo, sono i volti noti quelli che vengono presi dalle organizzazioni umanitarie per fare i testimonial, forse gli vengono dati passaporti, vanno in giro nei campi. Però questi volti noti arrivano con l'aereo personale, la scorta, viaggiano in prima classe, con macchine private lussuosissime, arrivano lì, stringono un bambino in braccio, si fanno fare 10 foto, poi si disinfettano con la mucchina e se ne tornano a casa, che è esattamente quello che non vogliamo noi. Ed è esattamente il motivo per cui facciamo questa cosa. Azzolini, quanti giorni staranno chiamiamoli VIP, insomma, dobbiamo usare un termine, i personaggi? Insomma, personaggi. Persone più note di noi. Sì. Va bene? Saranno giù 15 giorni. Beh, insomma, che già è un tempo, avevo letto pochi giorni, 15 giorni inizia a essere un tempo. Guardi, inizia a sprofondare nel fango. Le posso dire? C'è chi ha chiesto, io avevo solo 4 giorni di tempo, oppure chi ha detto, io a più di 4-5 giorni non posso assolutamente, è un'esperienza, va bene, ma non voglio viverla così in maniera così totale, se vi serve lo faccio, come se facessimo una fiction, la lasciate a casa. Senta, lasciate a casa, sì. Perché continua questo a non essere un reality, sì. Oppure un programma tarocco. Sì. Senta, ho due domande prima di lasciarla sul lavoro. La prima è: mi conforta il fatto che UNHCR e Intersos, che sono organizzazioni serissime, siano con noi in questa operazione, perché ne hanno capito il senso e ne hanno capito la volontà e lo scopo. E questo ci conforta e ci onora, devo dire. Beh, Azzalini, parliamoci chiaro, l'occasione mediaticamente è bella ghiotta, perché insomma date una visibilità al problema, ai personaggi, alle ONG. Può essere bella ghiotta, ma come avrà notato da quello che è successo in rete, può essere anche un boomerang. Ah, certo. Allora, per evitare gli autogol, diciamo che loro ne hanno capito, hanno capito l'onestà del progetto, e questo ci fa piacere. I personaggi televisivi saranno pagati? Guardi, saranno pagati, gli viene dato un minimo gettone, ma non sono pagati di fatto, è un minimo gettone di presenza. Che può quantificare in qualche modo? Non lo quantifico per ragioni di privacy, ma le posso dire che non vengono pagati quanto vengono pagati, per esempio, per una partecipazione di un'ora in una trasmissione, in una qualsiasi trasmissione televisiva. Quindi è una cifra distante, diciamo, dai loro cachet normali. Tantissimo, molto distante. Tengo presente che danno 15 giorni della loro vita a noi, Sì. Beh sì, d'altra parte lì c'è gente che ha la vita in bilico, insomma, da anni in alcuni casi, per cui... No, assolutamente sì. L'ultima domanda, che è quella un po' cruciale. Questa, anche questa cosa è stata voluta, perché sono tutti capaci, con questa crisi, di farsi pagare per andare. No, certo, è chiaro. Senta, ha parlato... Per fare questa cosa bisogna essere motivati. Nessun luogo è lontano. Less than one year ago, Zaatari Refugee Camp was desert and dust. It was meant to house 20,000 refugees. Now Zaatari is home to more than 120,000, the second largest refugee camp in the world. E la voce che sentite è quella di Angelina Jolie, lei che è uno dei volti noti dell'UNHCR a livello mondiale. Questo per dire che le organizzazioni utilizzano personaggi famosi per sensibilizzare su determinate vicende. Però vi leggo un po' di sms che stanno arrivando al 349-238-6666, in cui fondamentalmente si dice, a parte che sperano che i personaggi lo facciano gratis, ma a questo punto l'abbiamo già chiarito, e l'altro è un invito a fare delle vere inchieste giornalistiche. Cioè si dice, in sostanza, il pericolo, il timore della spettacolarizzazione è che si sposti l'attenzione dal problema dei rifugiati e dai problemi che stanno dietro, perché il campo rifugiati è un sintomo di un problema che sta dietro. Perché chi scappa dalla Siria scappa perché c'è la guerra, poi li trovi in Giordania, chi scappa dal Congo scappa perché c'è la guerra, quindi bisognerebbe andare alle cause. E quindi si dice, insomma, la spettacolarizzazione sposta il problema dalle cause, dal campo dei rifugiati alla Canalis, a Emanuele Filiberto o Albano. Abbiamo da Beirut Marco Rotelli, vi dicevo all'inizio trasmissione, che è segretario generale di Intersos. Rotelli, voi avete accettato questa collaborazione di buon grado, perché abbiamo capito la vetrina è notevole, la RAI sta assicurando che le cose verranno fatte a regola d'arte, non vede davvero nessun pericolo, ascoltando quelle che sono le perplessità di alcuni degli ascoltatori, questo problema della possibile spettacolarizzazione, non lo vede? Guardi, noi non abbiamo accettato una vetrina, abbiamo accettato un progetto nel quale, quando ci è stato spiegato e quando abbiamo posto le nostre, chiamiamole non condizioni ma regole, i paletti, per parlarci chiaramente, nel quale abbiamo creduto immediatamente. Noi quello che cerchiamo qui è di poter parlare alle persone normali, al cosiddetto pubblico, non è forse la parola migliore, comunque alle persone che accedono a mezzi di comunicazione normali e non nelle rassegne stampa internazionali o nelle analisi dei think tank internazionali, permettere a loro di vedere cosa accade nel mondo. Avete citato il campo di Zaatari, io c'ero 3 giorni fa in Giordania, ai confini con la Siria, mi state chiamando da Beirut, come vedete sì. Questo non ci distrae dal nostro lavoro, dal nostro lavoro quotidiano. Credo che Azzolini prima lo accennasse, ci sono anche per noi ci sono più rischi probabilmente che possibilità di vetrina e di notorietà dell'organizzazione, i rischi che vediamo conclamati oggi nella reazione soprattutto diciamo del web. Sì. Li abbiamo soppesati, li abbiamo preventivati e noi crediamo che il progetto sia più importante del rischio che noi corriamo. Il messaggio che vogliamo trasmettere è talmente fondante della nostra organizzazione, cioè vogliamo parlare alla gente di quello che accade nel mondo proprio per discutere poi delle cause e delle conseguenze delle crisi internazionali, nazionali e delle conseguenze umanitarie delle stesse, sì. È più importante di noi, di Intersoft e di quanto possiamo rischiare qualche insulto o qualche polemica sì. In questo periodo. Allora, peraltro devo anche aggiungere per dovere di cronaca che la polemica per il momento è abbastanza confinata un po' al mondo ovviamente della cooperazione, dell'emergenza e dello sviluppo, cioè dell'ONG. Che è un mondo molto spesso un po' chiuso in se stesso, un po' insomma ce la si canta, ce la si suona. Vediamo se questo esperimento gioverà anche all'apertura di questo mondo. Chi si è fatto alfiere in qualche modo del malumore, in parte del mondo del volontariato, in parte della rete in generale, è Giulio Sensi, direttore di Volontariato Oggi, che Giulio, di nuovo buongiorno e benvenuto. Che ha fatto una proposta e io ho trovato molto intelligente, perché poteva fare il forcaiolo dicendo al bando questo programma, insomma la spettacolarizzazione non serve a niente, non voglio vedere Albano che canta con i bambini in Sudan, che canta magari felicità. Giulio Sensi ha detto emendiamolo, se questa è l'idea facciamo suggerimenti, facciamo miglioramenti. Allora Giulio, hai sentito Azzolini, hai sentito Rotelli, quali sono in prima istanza i miglioramenti che secondo te si potrebbero fare a The Mission, così iniziamo un po' a, come dire, mettere carne al fuoco. Certo, se ne possono fare molti. Intanto una buona notizia, il dottor Azzolini ci ha dato una buona notizia, cioè che la RAI sostanzialmente rompe il silenzio su questi temi, perché diciamocelo, di queste tematiche, delle crisi internazionali, ma anche in generale delle tematiche diciamo che riguardano gli esteri e i paesi che sono lontani, ma che in realtà, come tu ci insegni, non sono lontani così tanto da noi, se ne parla veramente molto poco. Quindi questa è già una buona notizia, cioè se ne vuole parlare. I malumori ci sono, esistono, anche perché nella direzione che ha preso la televisione italiana negli ultimi decenni non assicura niente, non rassicura nemmeno rispetto ai timori, li hai ricordati, sono stati ricordati, spettacolarizzazione. C'è chi ha parlato. Sì, però Giulio, starei sul, cioè non facciamo una disamina della TV, la conosciamo, voglio dire, certo, né vorrei per carità fare un saggio di mass mediologia, insomma. Stiamo a, allora hai sentito, Azzolini dice ni sui nomi che ho detto io. 15 giorni però non sono pochissimi per calarsi in quella realtà. Che cosa si potrebbe migliorare? Che cosa si potrebbe fare in più, secondo te, per raccontare un'emergenza umanitaria? Che è questa, penso. Intanto c'è già chi vive lì un reality quotidiano che è lontano dalle telecamere, sono gli operatori, i cooperanti, i volontari, quelli potrebbero diventare, essere in parte protagonisti. Poi ci sono anche delle persone all'interno di questi contesti, non solo quelli diciamo proprio più di crisi dei campi profughi, ma anche di contesti che non hanno gli onori nemmeno della mega crisi umanitaria, ma che sono ancora più dimenticati, che magari non verranno nemmeno coinvolti da questo programma, ma ci sono questi contesti, hanno anche delle persone che si sforzano di fare comunicazione, anche dei video operatori in loco. Ci sono moltissimi africani, latinoamericani che lavorano a una comunicazione diversa dei contesti diciamo di povertà in cui si cerca di migliorare le proprie condizioni. Allora una proposta potrebbe essere: perché non facciamo un'alleanza con loro, una sorta di cooperazione mediatica, di cooperazione che la RAI potrebbe attivare per questo obiettivo, invece di mandare le nostre costose troupe, andiamo dai loro fruttori. Poi ci sono altre. Però Giulio, storie. Scusami, permettimi, poi do la parola sia a Rotelli che a Azzolini su questo punto. È vero che ci sono tanti videomaker di buona volontà, è vero che ci sono dei cooperanti che magari hanno anche un talento di comunicazione notevole, però qua stiamo parlando di una prima serata, stiamo parlando di un pubblico generalista, e io trovo molto spesso tanti video, tante produzioni di tante ONG sono un po' chiuse in se stesso e attenzione, loro stesse toccano spesso sempre gli stessi tasti, un po' del pietismo, un po' del buonismo e sempre i bambini con le mosche attorno agli occhi, che per carità ci sono, però mi sembra che si batta sempre su un unico registro. Marco Rotelli su questo punto da Beirut. Ma guardate, io credo che i cooperanti debbano fare il proprio mestiere. Non ci vogliamo trasformare né in giornalisti, né in cameraman, né in personaggi dello spettacolo. Noi siamo lì, ci siamo tutti i giorni, siamo anche nelle crisi cosiddette dimenticate, proprio perché noi per mandato non ce le dimentichiamo, non ce le possiamo dimenticare. Lavoriamo, ci spettiamo la schiena tutti i giorni su questi argomenti. Vediamo che è interessante l'idea di fare degli emendamenti. La mia domanda è: emendamenti a cosa, visto che ancora non è stata in qualche maniera alzata, come dire, la tenda sui contenuti veri del programma. Ma io ci sto provando con Azzalini, proviamo, squarciamo il velo di Maya, mi dice almeno chi è che conduce. Ho letto Marco Liorni, è possibile? Scusi, ecco. Innanzitutto il programma si chiama Mission, sì, e non The Mission. Chiedo, faccio ammenda. No, lo dico perché è giusto che se ne sappia. Sì. Marco Liorni alla conduzione, giusto perché no. È stato deciso un conduttore. Non è stato deciso un conduttore perché in questo caso, a differenza di tutti gli altri programmi di prima serata, è più importante il contenuto, che è quello che andiamo a fare, che il contenitore, che è quello che contiene il contenuto. Ecco, questo mi sembra che stia toccando un punto. Ci stiamo concentrando sul contenuto. Noi stiamo lavorando sul contenuto. Vorrei dire una cosa che... Sì. Avete detto un po' tutti. Innanzitutto voglio dire a Intersource che vorrei puntualizzare una cosa. Intersource non ci ha messo dei paletti. Ci siamo accorti con Intersource e con NHCR che avevamo univocità di vedute, che i nostri, quelli paletti che ci eravamo posti noi, erano i paletti che gli altri volevano, che gli altri desideravano, e in questo caso non abbiamo, noi non abbiamo dovuto accettare diktat, sì, perché ce li eravamo già, erano già autoimposti nel progetto, sì, e loro hanno visto di buon grado il progetto perché all'interno erano contenuti quelle regole che loro desideravano. Me lo può confermare questo? Rotelli, confermi in diretta. Assolutamente questo, c'è stata una convergenza di opinioni e di, come dire, intesa su quello che si andava a fare. Questo per ribadire l'onestà del programma. No, ma nessuno ha messo in dubbio. Ci tengo a chiedere. Cioè, se due lavorano insieme hanno identità di vedute, per carità. Visto che è la prima volta che se ne parla, sì, voglio che se ne parli nella maniera giusta. Sì. È vero che ci sono dei personaggi noti che vanno in questi luoghi. Che cosa fanno però? Chiedo scusa, Azzalini. Mi scusi. È anche vero che non vivono in una bolla temporale dove stanno da soli, nel vuoto, nel nulla, e guardano solo i bambini con le mosche, sì, attaccate dagli occhi. Lavorano e vivono insieme ai volontari, ai cooperanti. Quindi distribuiscono pasti, montano la tenda, tirano l'acqua dal pozzo, tutto quello che la realtà è che noi gli facciamo fare quella vita, perché vogliamo, quello che vogliamo far capire alla gente, che viviamo in una condizione abbastanza agiata, che per quanto ci lamentiamo, c'è una parte rilevante del mondo che ha motivi per lamentarsi ancora di più, e che noi dimentichiamo. Noi pensiamo che solidarietà significhi solamente, parlo per me, ma penso di parlare a nome di tutti, mandare un SMS, adottare un bambino a distanza, fare queste cose ci lavano la coscienza, poi tutto quello che succede fuori da casa nostra non ci interessa. Noi vogliamo far vedere cosa succede fuori da casa nostra. A chi lo dice? Guardi, vogliamo... su questo c'è piena identità di vedute. C'è il traffico, poi le ridò la parola, giuro, promesso. Nessun luogo è lontano. Refugees, asylum seekers, boat people, Issues that divide the nation. But what do we know of those who risk life and limb to... E il trailer che sentite è quello di un programma australiano, Go Back to Where You Came From, che è stato trasmesso nel 2011, che era un modo, io trovo assolutamente geniale e laterale, di trovare il tema dei rifugiati. Hanno preso 6 cittadini australiani con un'opinione forte sul tema immigrazione e rifugiati e li hanno rispediti a fare il viaggio al contrario, con tutte le difficoltà che voi potete immaginare, tipo centro di prima accoglienza, una bella traversata in canotte e poi ritorno, che ne so, in Iraq o in Congo. Di nuovo la parola a Antonio Azzolini, capo struttura RAI, che stava puntualizzando quelli che sono i contenuti di Mission, che mi sembra la cosa fondamentale. Prego, Azzolini. Quello che difendo tanto il programma, perché ne sono l'ideatore insieme a un mio amico, quindi lo vivo da quando è nato, sì. Cioè da una chiacchierata con un amico. Quello che noi vogliamo assolutamente far vedere è che fuori dalla nostra portata, dalla nostra vista, un mondo che tendiamo a dimenticare. A me piacerebbe e spero che il programma abbia abbastanza successo da poter permettere una seconda edizione. A me piacerebbe fare la mensa della Caritas a Roma, perché il disagio ce l'abbiamo anche in casa e non lo vediamo. No, ma su questo, per carità, è chiarissimo. È chiarissimo, sì. Ma è questo il punto. Ma la domanda chiave il principio fondante di Azzolini, è alla fine: ma perché nomi come quelli che abbiamo letto, Emanuele Filiberto, Paola Barale, Elisabetta Canalis, cioè non c'erano altri volti noti, ugualmente noti, che però hanno un po' di background, conoscono un po' di più quella materia, sono abituati a viaggiare, cioè, che ne so, Mi scusi, non voglio fare l'autore per lei, per carità. Se io chiamo Alberto Angela, alla fine sarà un bel documentario sul disagio sociale, o su un problema sociale, o su il problema dei profughi. Che è quello che chiedono molti ascoltatori. Voglio fare un'altra cosa. Però. Molti ascoltatori dicono: facciamo informazione, non spettacolo. L'informazione fa l'informazione. Mm. Io faccio un'altra cosa. Io faccio infotainment. E le dico una cosa, però. Sì. Al di là di quello che scrivono sui tweet, o con i tweet, oppure con i vari messaggi, e dico questo, che mi pare, per me è ovvio, ma probabilmente per molti no. Se io prendo un giornalista qualsiasi, gli faccio fare un'inchiesta, faccio un'inchiesta giornalistica, è un'altra cosa. Io voglio fare un'altra cosa. Voglio prendere una persona in cui l'uomo della strada si identifichi, perché è un beniamino, perché è amato, perché è banalmente amato, perché è un, adesso lo metto tra virgolette, sì, perché sono persone che stimo e a cui voglio bene, perché li conosco tutti questi, prendo una persona che è il banale della televisione, cioè l'ovvio della televisione, di cui si sa che ha una bella immagine, sì, che parla bene, che sa cantare forse, ma di cui non si sa se ha un'anima, se ha una famiglia, se ha un cervello, se ha una coscienza. Ma se un cervello speriamo di sì, insomma. Di cui non si sa questo, lo prendo e lo metto in un luogo al di fuori dal mondo, un luogo dove una persona normalissima non andrebbe mai e che fa finta di non vedere. Ok, lo prendo, lo metto lì, e se quella persona, che è la persona con cui il pubblico con cui si identifica, se quella persona cambia, se quella persona sa dare qualcosa, se da quella persona esce un po' di anima, io ho fatto il mio lavoro, perché certamente alla fine della puntata uno che ha capito che fuori da casa nostra c'è l'inferno, ci sarà. Se io ho convinto qualcuno ad aprire gli occhi e a vedere che 3/4 del mondo vive male, ho fatto la metà del mio mestiere. Un operatore della TV pubblica. Posizione chiarissima. Lei dice: non me ne frega niente di quanto ascolto faccio. Ma insomma, su quello magari qualche dubbio viene vedendo chi. Certo, poi, peraltro, chiedo scusa, Zalini, però lei dice un personaggio in cui uno si identifica. Non so quanti si identificano nel Principe, Emanuele Filiberto, o quanti in Albano. Però, per carità, ripeto, non voglio fare polemica di bassa lega su questa cosa qua. Assolutamente. Invece, tornerei da Marco Rotelli a Beirut, che credo che fra l'altro sia impelagato in una serie di visti, aeroporto e quant'altro. Marco, ci sono dei luoghi principe che debbono essere raccontati in estrema sintesi, in chiusura di trasmissione? Cioè, ci sono dei campi profughi sui quali i riflettori vanno accesi, assolutamente. Ma guardate, sicuramente le crisi africane sono centrare, assolutamente una delle questioni umanitarie più importanti, più gravi, più bistrattate e dimenticate. Quindi su questo penso che valga la pena spendere del tempo e poi degli approfondimenti. Volevo fare un riferimento alla questione delle inchieste e dei reportage. Sì. Noi dell'ONG, le Nazioni Unite e altri ne abbiamo visti, fatti, abbiamo aiutato e collaborato in centinaia e migliaia di questi progetti. Sono sempre finiti nei programmi della mezzanotte, nelle quindicesime pagine dei quotidiani o nei box a margine dei settimanali. Siamo stanchi perché riteniamo che dell'umanitario, di quello che accade fuori da casa nostra, si debba parlare, si debba vedere, e il fatto di trovare dei volti noti, che ad alcuni possono non piacere, ma a molti altri piacciono, sono persone che riscuotono un determinato successo e hanno una loro credibilità, sia un mezzo. Tutto questo va fatto assolutamente nella tutela e nel rispetto delle persone che, attenzione, hanno accettato di buon grado di partecipare a questo programma con noi, proprio perché siamo partner delle persone che cerchiamo di aiutare, quindi non c'è nessun tipo di scavalcamento o di mancanza di dignità o altre cose che abbiamo letto questi giorni nei vari blog. Sì. e appunti vari. Mi viene da pensare che forse alcune forme di alcuni di questi blogger o commentatori, queste sì, sono molto poco rispettose. Pazienza nei nostri confronti, ma nei confronti di chi stiamo parlando. Allora, levata di scudi da parte di alcune ONG, da parte di alcuni osservatori, poi uno malignamente potrebbe dire: va, le altre ONG si arrabbiano perché non hanno avuto questa occasione. Altri ancora potrebbero dire: ma insomma, come ho detto prima, fra tutti gli alfieri, fra tutti i comunicatori che si potevano scegliere, proprio Emanuele Filiberto, proprio Albano che dovrà cantare. Cioè, esiste un problema di autorevolezza di chi parla, di chi ha coscienza di dove va. Io mi domando quanto, e se hanno la possibilità, la Canali, so chi andrà, o la Barale, di studiare veramente la situazione, perché è un problema anche di noi giornalisti, è un problema di operatori. Quando si va in un posto bisogna studiare, bisogna capire dove si va, bisogna capire che fango si va a calpestare, bisogna sapere che lingua si parla, bisogna sapere la storia di quel paese. Io poi mi domando se tutte queste persone avranno il tempo di studiare e di presentare la cosa con la complessità che merita, perché questi temi di giustamente ha ragione Rotelli, ha ragione Azzalini, insomma si parla pochissimo, ha ragione Rotelli anzi, si parla pochissimo di esteri, noi cerchiamo di farlo, nessun luogo è lontano, ma gli esteri sono complessi e non si possono semplificare perché le questioni sono complesse. Torno a Giulio Sensi, che è un po' l'emendatore. Sei soddisfatto da queste risposte e da questi possibili emendamenti, insomma, che potrebbero essere fatti, Giulio? Ma io non dubito, moltissimi anche nel campo della cooperazione internazionale non dubitano delle migliori intenzioni. Si potrebbe anche dire cosa hanno le altre ONG per non poter partecipare a questo progetto, ma questa è ancora un'altra cosa. Ci sono personaggi, magari anche meno banalmente amati, ma che sono molto amati, forse anche molto più di Emanuele Filiberto Albano. C'è Gino Strada che è in prima linea, ci sono tantissimi cooperatori che sono anche dei personaggi pubblici. Perché non andare a seguire un reality con loro? Perché chiamarlo reality? Non è il punto di avere o meno un reality. Delle buone intenzioni nessuno dubita, il problema è parlare correttamente e parlarne facendo in modo che questa sia un'occasione per il servizio pubblico per far vedere, per mostrare una realtà senza filtri di spettacolo che probabilmente non hanno niente a che fare con questa realtà. E in questo ci sono tantissime cose che si possono fare e si potranno ancora fare. Poi giustamente, se le notizie su questo reality non filtrano, è difficile anche fare delle critiche puntuali. Ovviamente c'è un mondo che sta vigilando per fare in modo che se ne parli correttamente anche in questo modo, e vigilerà. Ecco, però Giulio, sulla mia riflessione di prima, che molto spesso anche la comunicazione dell'ONG è melassosa, è pietistica, è sempre la stessa, sono sempre le stesse foto, alla fine si chiede l'SMS, non credi che, voglio un po' provocarti su questo, non credi che questo esperimento possa un po' rompere le regole? Ma lo speriamo tutti, anche perché le ONG sono in una competizione tremenda per sopravvivere e stanno ritornando i bambini con le pance gonfie e le immagini crude. Questo sta ritornando ed è criticato allo stesso modo. Io l'ho scritto sul mio blog su Vita, è criticabile, dico criticabile, non è criticabile, ovviamente da mettere in discussione allo stesso modo. C'è questo, ovviamente le ragioni sono ragioni di marketing, se ne può. C'era stato un periodo di un paio di decenni in cui la comunicazione delle ONG e anche il racconto delle situazioni umanitarie ma anche delle situazioni di povertà ha fatto dei passi avanti notevoli, fondamentali. Si faceva vedere tra virgolette il povero come protagonista, come soggetto e anche come soggetto forte, perché questi non sono tanto tutti lì che aspettano che qualcuno li venga a salvare. Siamo in chiusura, Giulio, scusami. Quindi secondo me sì, è anche quello criticabile. Bisognerebbe fare tutti quelli che siamo in questa intervistati da te un passo avanti e cercare però di trovare nuove forme, nuovi codici. Grazie Giulio, devo interrompere perché in chiusura devo peraltro ricordare quella che è la posizione ufficiale dell'UNHCR, che dice: siamo contenti che il problema dei rifugiati venga portato in prima serata, confidiamo che la RAI tratterà l'argomento al meglio. Il delegato per il Sud Europa ha dato disponibilità a intervenire dopo il 16 agosto perché è all'estero per ragioni lavorative. Io ringrazio Antonio Azzalini, capo struttura RAI, Giulio Sensi, direttore di volontariato Oggi, Marco Rotelli, segretario generale di InterSOS. Ringrazio anche Miriam Lucchetti, Gianmarco Ferronato che hanno confezionato con me questa puntata. Un'ultimissima notazione, un'opinione mia personale, me la consentirete: forse l'informazione deve fare un passo in avanti, forse non bisogna relegare allo spettacolo, all'infotainment, la trattazione di certi temi. Forse, visto che nessun luogo è lontano, dovremmo fare un piccolo sforzo noi tutti. Buona giornata da Gianpaolo Musumeci.